Benvenuti a Dedicato, mercoledì 22 gennaio. Oggi abbiamo un ospite. Ciao Paolo, benvenuto a Dedicato. Ciao, grazie. È Paolo Morabito, che è nostro amico, direi. Ed è qua con noi perché ha scritto un libro meraviglioso che adesso ci racconterà, ma ovviamente non è solo scrittore, come capita a tanti di noi che scriviamo. È un profiler, un formatore, è a Bologna da tanti anni, quindi insomma conosce la città e la nostra realtà, e questo ci ricollega poi a un secondo discorso, perché lui ha una collaborazione per questo libro con un'associazione importante cittadina. E adesso io lascerei la parola a Paolo, che intanto ci saluta e si presenta e ci racconta un attimo da dove è nata l'idea di questo libro, perché è nata anche. Intanto ciao a tutti, e come hai detto Erika, sono anche un ascoltatore di vecchia data di Radio Fujiko, quindi mi fa molto piacere essere qui oggi. Io, come hai detto, faccio di professione il formatore, il profiler. Vorrei spiegare velocemente che il profiler è un professionista che si occupa dello studio della personalità e del carattere. Io ho impostato tutta la mia carriera da 30 anni, visto che sono partito nel 1994, su questi primi 7 anni della vita del bambino, che sono gli anni cruciali in cui si formano tutta una serie di cose che poi danno forma finale a quello che viene chiamato comunemente carattere. Quindi parliamo di attitudini, di mappe mentali, di tutto quello che l'ambiente trasferisce al bambino in questi 7 anni. Quindi l'idea del libro, come mi hai chiesto, è un po' il coronamento di una carriera, ma anche l'inizio di una nuova, forse speriamo, carriera, perché ho avuto, diciamo, questa intuizione 8 anni fa. In realtà non è un'idea che mi è venuta da recentemente, perché dopo un momento difficile della mia vita in cui avevo necessità di ricostruire, di rinascere, come si dice in gergo, mi sono trasferito sugli Appennini per guarire da un problema di salute grave, e a contatto con la natura, cosa che amo frequentemente e che frequento anche oggi frequentemente, ho avuto l'idea di cominciare a buttare giù qualcosa di mio e che avesse per protagonista qualche creatura del bosco. Purtroppo 8 anni fa quella chiavetta in cui erano salvate le mie favolette andò distrutta per un incidente. Mannaggia! Un incidente casuale, perché la chiavetta mi cadde dalla tasca, diciamo, la mia famiglia, che era venuta a trovarmi, andando in retromarcia con la macchina, mi distrusse la chiavetta e quindi sul momento abbandonai il progetto. Distrutto un pensiero, praticamente. Distrutto un pensiero che poi in quel momento, però, dentro di me ho pensato: forse non è il momento giusto. Quindi l'ho preso, diciamo, dopo il primo momento di veramente amarezza, l'ho preso come un bicchiere mezzo pieno, dicendo: forse non era il momento di farle uscire. Sono state nel cassetto 8 anni, il cassetto della mia mente, e l'anno scorso, per una pura casualità, dopo una cena in cui il tema venne fuori, quello delle favole, tornai a casa veramente motivato e mi misi a scrivere di nuovo. Ah, ecco. Non ricordavo nulla, sono sincero, se non 2 o 3 favolette a grandi linee di quelle che avevo buttato giù 8 anni fa. Quindi mi sono rimesso da capo, poi pian piano, mentre scrivevo le nuove, anche le vecchie sono tornate a galla. E quindi me ne sono salvate 3, e poi, diciamo, nel giro di qualche mese ho concluso la revisione finale. Il libro è uscito il 5 novembre. Quindi è del 2024, ed è un libro, ci tengo a precisare, che ha a cuore la città di Bologna. Come hai detto tu, io sono arrivato nel 1983 a Bologna, quindi ormai sono più di 40 anni, quindi sono un bolognese di adozione. Ho voluto dedicarlo alla città, come dicevi tu, insomma. Beh, allora, intanto raccontiamo anche un attimo di questo libro. Intanto si intitola La Quercia d'Oro e le creature del Bosco Magico. Esatto. E iniziamo a dare anche una caratterizzazione a questo libro, perché effettivamente tu parli di favolette, ma noi non abbiamo raccontato che questo libro è composto da un tot numero di favole. Sì, esatto. che ognuna va a tracciare un percorso ben definito, esatto. Cioè o un'emozione o una parte del nostro carattere che si sviluppa appunto negli anni che tu dicevi, esatto. Dalla nascita fino ai 7 anni del bambino, e lì è in crescita. Esatto, io ho usato diciamo simbolicamente la quercia d'oro, che è la protagonista, questo albero ricoperto tutto d'oro, ha un potere magico che è quello di aiutare, non con la bacchetta ma con dei consigli, di aiutare le creature del bosco ad affrontare le proprie sfide personali di fronte a dei blocchi. Quindi diciamo ogni favola, sono 10 in totale, affronta un tema legato al carattere, quindi abbiamo temi come il bullismo, come la timidezza, come l'insicurezza, la paura di sbagliare. Quindi in ogni favola la quercia è sempre presente, anche silenziosamente, perché è un po' come l'ho immaginata, come la figura genitoriale che in qualche modo o eroga dei consigli o comunque sai sempre che c'è e ti puoi addentrare nel bosco, e se qualcosa non dovesse andare torni a... Hai un punto di appoggio. Hai un punto di appoggio e di protezione. Diciamo che il viaggio, visto che poi le favole sono in qualche modo corredate dagli stessi protagonisti, è diciamo intrecciato nell'ambito delle 10 favole, dove appunto Quercia rappresenta la figura di riferimento e le creature non sono rappresentate da esseri umani o da bambini, ma sono rappresentate da animali o da creature o da fiori del bosco, insomma, che io poi tra l'altro ricordo di aver incontrato in quella mia esperienza tanti anni fa e che continuo a incontrare, perché amo periodicamente andare a passeggiare nelle foreste. Andare per boschi, sì. Allora Paolo, io manderei un primo brano musicale, come facciamo sempre con i nostri ospiti, la scelta musicale della puntata è tutta tua, quindi noi mandiamo questo primo brano e ci risentiamo subito dopo. Bentornati in studio. Allora siamo di nuovo qui con Paolo Morabito. Abbiamo ascoltato Catch dei Cure. Grazie per questa scelta musicale. Ci piace. Grazie a voi, insomma. Allora Paolo, torniamo un attimo sul tuo libro, La Quercia d'Oro e Le creature questo, del bosco magico, sì. Certo, questo meraviglioso percorso che si fa con il tuo libro, perché non è leggo una favoletta a mio figlio e poi lo metto a dormire, ma ha tutta una serie di interazioni, a parte adesso la questione questione dei disegni e delle immagini che tu ci racconterai dopo, legandoci anche a un altro discorso che è questa collaborazione con un'associazione importante bolognese. Ma mi interessa anche andare a approfondire il discorso delle schede, perché alla fine di ogni favoletta, come dici tu, di ogni storia che va a trattare un tema specifico, c'è questa scheda per gli adulti, quindi per i genitori o per chi decide, magari anche maestre o insomma educatori che decidono di utilizzare questo libro per crescere insieme ai bimbi. E questa scheda va a spiegare, giusto, esatto. Brevemente, che cosa? La tematica della storia. Esatto, come dicevamo prima, ogni favola affronta un tema caratteriale. Alla fine di ogni favola io ho ritenuto di creare una sintesi del tema formativo e quindi diciamo che al posto della morale tradizionale che si usava nelle favole, ho cercato di inserire una riflessione sul tema. Adesso ne prendo una a caso, per esempio nella favola di Solino, Girasole insicuro, che è una delle favole che, a quanto mi dicono a livello di feedback, sta riscuotendo più consensi. Il tema è proprio l'insicurezza, e quindi alla fine della favola io ho inserito una scheda sulle qualità positive dell'insicurezza, perché normalmente si tende a vedere questi aspetti come dei difetti, invece ogni caratteristica, io la chiamo così, come l'insicurezza o la timidezza, contiene all'interno anche delle qualità positive. Quindi io nella scheda ho riassunto per genitori e anche per i ragazzi quelle che sono le qualità positive dell'insicurezza, quindi come che possono essere l'educazione, la gentilezza o anche la prudenza, perché normalmente l'insicuro ci pensa qualche volta in più, certo. E quindi ci dà la possibilità a chi è più portato a rischiare di dire: aspetta che conto fino a 10, no? Ecco, esatto. Quindi questi aspetti sono per me molto importanti e secondo me sono il vero succo di ogni racconto che ho inserito nel libro. Ok, quindi un libro dedicato ai bambini, ma guidati da un adulto comunque. Sì, diciamo che come tutte le cose che prendono forma piano piano, io mi sto rendendo conto che il vero destinatario di questo libro è l'adulto. Poi il mio sogno è che questo adulto possa condividere con i ragazzi la favola e aprire un dibattito, perché ce n'è molto bisogno anche al giorno d'oggi, perché sono cose che ormai... Ma tutta la mia vita è stata caratterizzata da anche altre iniziative dove magari oggi qualcuno mi ha detto: ma come, non legge più nessuno, tu scrivi un libro di favole? E ho detto: forse è il momento giusto per farlo. Ma insomma, non legge più nessuno? Questo io leggo un sacco, conosco molta gente che legge. Lo so, però... E noi dobbiamo proprio lavorare su questo, bravissimo. Riproporre la lettura sotto qualunque forma, dalla favola al fumetto, va bene, basta che si legga. Concordo. Sì, questo mondo, diciamo, ne ha tanto bisogno, sì. I nostri bimbi ne hanno tanto bisogno. No, il mio riferimento a non leggere più, non vorrei fosse frainteso, è più legato al fatto che magari con la velocità dei social oggi certo. ci fermiamo di fronte a un messaggio superficiale, e proprio a livello di lavoro mio tutti i giorni mi rendo conto che c'è la tendenza da parte anche di molti a rimanere in superficie nei ragionamenti, no? No, questo libro invece di grande approfondimento mi auguro possa colpire da questo punto di vista. Come dici tu, sui social quando si posta un commento troppo lungo la gente non lo legge, e i famosi social media manager ti dicono: no, devono essere cose corte, veloci, con delle immagini, esatto. Perché hai ragione, non ci si ferma, quindi da quel punto di vista la lettura sì, è un po' abbandonata in effetti. Allora mandiamo un secondo brano musicale, sempre scelto da Paolo, quindi grazie per la tua scelta, perché io lo so già qual è il brano musicale e ci piacerà, e ci risentiamo tra poco. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. driving in your car. Oh, please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. Bentornati in studio, abbiamo ascoltato The Smiths, gli Smiths sempre scelti da Paolo, grazie. E torniamo, direi, con gioia a questo punto a parlare del tuo libro, e in questo caso la gioia c'è perché? Perché parliamo di questa collaborazione che tu hai e di cui abbiamo già accennato anche a inizio trasmissione con un'associazione importante bolognese che lavora proprio per i bambini e per le famiglie. Quindi adesso ti chiedo di raccontarci un po' di Bimbo Tu, del perché intanto hai scritto questo libro e realizzato questo percorso con loro, ma soprattutto di raccontarci anche chi è Bimbo Tu, chi sono, che cosa fanno e perché sono così importanti. Allora sì, come dicevi te, con gioia, perché è nato un po' dal fatto che io già da anni collaboro e organizzo anche qualche evento sportivo per loro, e quindi con finalità benefica. È nato un po', diciamo, anche sempre con un pizzico di fortunata casualità, la chiamo io, perché a un certo punto, quando ho finito le favole, pensavo già da tempo a come illustrarle. Facendo i primi preventivi mi sono reso conto che, insomma, mi chiedevano dei prezzi esorbitanti, visto che questo libro, ci tengo a precisarlo, è completamente autoprodotto da me, quindi non ho volutamente scelto di avere una casa editrice per preservare la donazione, lo spiegherò fra un attimo. Un giorno, andando in Bimbo Tu per altri motivi, vidi tutte queste sale attrezzate con disegni fatti dai bambini, e visto che i preventivi che mi avevano fatto erano veramente fuori budget per illustrazioni con degli illustratori un po' più professionisti, chiesi a Bimbo Tu se era possibile la possibilità di far disegnare l'illustrazione delle favole ai bambini. È stato accettato con gioia questo, quindi la scorsa estate siamo andati, in particolare mia figlia è andata in tribù in questa splendida location che è all'interno dell'ospedale Bellaria, ha letto le favole e i bambini lavoravano per illustrarle nel doposcuola. Quindi Bimbo Tu è un'associazione importante di Bologna che supporta non solo i bambini ma soprattutto le famiglie che sono, ahimè, purtroppo costrette a rimanere per tanti mesi, tante settimane a Bologna per stare vicine ai bambini che hanno bisogno di cure e sono ospedalizzati. E quindi l'idea del presidente arcidiacono è stata quella proprio di creare una struttura sempre più grande, sempre più importante per fortuna, che potesse aiutare le famiglie. Quindi con loro è nata questa idea non solo di far illustrare il libro ai bimbi, infatti il libro ha tutte le illustrazioni con il nome del bambino che l'ha realizzata, ma abbiamo deciso e ho deciso di donare il 30% del prezzo di copertina in modo molto trasparente all'associazione. Per adesso siamo molto contenti, sta andando molto bene, nelle prossime serate raggiungeremo anche degli obiettivi importanti che poi saranno, diciamo, comunicati. Bene, bene, bene. Quindi Bimbo Tu fa un lavoro importantissimo, sì, sulla città e, sì, effettivamente noi nelle nostre corse quotidiane non ci soffermiamo a pensare alle problematiche che può avere una famiglia con un bimbo ospedalizzato e quale esborso economico, oltre al discorso emotivo, esatto, e personale che uno, esatto, vive, esatto, quale esborso economico ci può essere per stare fuori sede, perché fuori sede molti per, non per abitano tutta Italia, qui. Da tutta Italia poi, quindi la possibilità anche di creare, nei casi dove è possibile, chiaramente il fatto che il bimbo sta alloggiando all'interno della struttura creata da Bimbo Tu possa poi tornare dopo la giornata ospedaliera a stare con la famiglia, con la famiglia casa, e ritornare, certo, all'ospedale il giorno dopo, ecco, quindi, certo, come dici tu, insomma, c'è un esborso economico che altrimenti sarebbe insostenibile per le famiglie, Bene, quindi, bene, quindi ringraziamo Bimbo Tu per questo servizio che fa, ma per, immagino, con tanta fatica, perché assolutamente, perché appunto, e qui ci ricolleghiamo al discorso del 30% di ogni libro, sì, che tu vendi, che va appunto a Bimbo Tu, e quindi già questa è una cosa meravigliosa e noi ti ringraziamo per questo, perché vanno sostenute queste realtà assolutamente, e quindi come sta andando? Raccontaci un po', perché sta andando oltre ogni aspettativa, quindi diciamo che non mi aspettavo un riscontro così importante, anche perché, come dicevo prima, Erika, è tutto partito dal passaparola e continua ad andare avanti col passaparola. Quindi diciamo che non scegliendo una casa editrice, ma autofinanziando tutto, stiamo cercando di veicolare gli acquisti dei libri parlando con le persone. È possibile acquistare il libro sul sito www.laquerciadoro.it compilando il form. La cosa bella è che la catena di librerie Coop ha accolto il libro con piacere. Bene. Quindi è possibile acquistarlo, sempre con un progetto totalmente bolognese, nel circuito delle librerie Coop, anche online, quindi librerie.coop, lo potete trovare digitando La Quercia d'Oro, Le creature del bosco magico, e acquistandolo direttamente, certo, direttamente online, oppure quindi, alle tue presentazioni, oppure anche, perché tu presenti questo libro e da quello che so hai già fatto tante date. Ho fatto, ma ne farai altre, ne farò delle altre, ne ho fatte delle altre partendo dal 5 novembre, che è stato il giorno di uscita, dove l'abbiamo fatto una grande serata di evento nella sede di Bimbo Tu a San Lazzaro. Da lì poi c'è stata un'altra serata il 26, riprendiamo questa sera, 22 gennaio, casca proprio Fagiolo, quindi chi vuole raggiungerci, saremo a Pieve di Cento, alla Pinacoteca, quindi è una location anche molto bella, molto ampia, e devo dire che sì, in quelle serate è possibile acquistare il libro per chi vuole, per chi ha piacere anche avere una piccola dedica personale da parte mia alla fine della serata. Quindi diciamo che i canali, ricapitolando, sono le serate, sicuramente, librerie Coop e www.laquerciadoro.it, oppure trovate tutti i miei riferimenti sulle pagine social Instagram e Facebook, dove, okay, anche potete messaggiarmi su WhatsApp e io provvedo direttamente a fare tutto, anche la spedizione. Ah, perfetto, perfetto. Quindi, benissimo. È proprio, immaginate un laboratorio artigianale in cui stiamo lavorando dietro le quinte, in cui si fa tutto, si fa proprio tutto, si, esatto, fa tutto. Quindi questo, bene, è un po' bene, dalla scrittura al lettore, sì, direttamente, sì, dalla scrittura al lettore. Beh, quindi direi che è un libro chilometro zero, sì, quindi assolutamente. Assolutamente, assolutamente. Paolo, altre date in previsione ne avrai? Allora, giusto, sì, da qui all'estate? Questa sera 22 gennaio Pieve, il 13 febbraio siamo a Castelmaggiore alla Sala Cutuli, presso, okay, la biblioteca di Castelmaggiore, con un evento correlato a un progetto importante che è Family Academy. Tra l'altro ricordo anche Family Academy, un progetto per le famiglie che in qualche modo funge da patrocinio su ogni iniziativa, il 20 marzo a San Pietro in Casale, ma non voglio dimenticare in mezzo questa data simbolica, che è il primo momento in cui la Quercia d'Oro mette il naso fuori da Bologna, perché il 30 gennaio saremo alla libreria Bubu Settete a Cervia. Ah, bene. E quindi da lì partono poi altre date che si, diciamo, svilupperanno per tutto il 2025 anche fuori regione. Perfetto, benissimo. Paolo,